Oracolo su Moab. Sì, Ar Moab è stato devastato di notte. Ar Moab è stato distrutto. Sì, è stato devastato di notte. Kir Moab è stato distrutto. È salita la gente di Dibon sulle alture per piangere. Sul Nebo e su Madaba Moab eleva il suo gemito. Tutte le teste sono rasate, tutte le barbe rasate. Nelle sue strade si cinge il sacco, nelle sue terrazze si fa lutto, nelle sue piazze tutti si lamentano, fondono in lacrime. Chesbon ed Elealeh urlano, il loro grido è inteso fino a Jaas. Per questo i fianchi di Moab fremono, la sua anima tumultua in lui. Il mio cuore grida per Moab. I suoi fuggiaschi giungono fino a Zoar. Sì, la salita di Luchit la salgono piangendo. Sì, sulla via di Coronaim emettono grida strazianti. Sì, le acque di Nimrim sono diventate un deserto, l'erba si dissecca, la pastura è finita, non c'è più verdura. Per questo fanno provviste. Trasportano le loro riserve al di là del torrente dei Salici. Sì, risuonano grida per tutto il territorio di Moab. Fino a Eglaim giunge il suo urlo, fino a Bir Elim il suo urlo. Sì, le acque di Dimon sono piene di sangue, eppure io aumenterò i mali di Dimon. Un leone per gli scampati di Moab e per quelli che rimangono nel paese.